Zibaldone. Zibaldone, Zibaldone, Zibaldone, Zibaldone, Zibaldone. Zibaldone, un programma in italiano non solo per italiani. Ogni venerdì dalle 18 alle 20 su Radio Contrabanda 91.4 FM a Barcellona. Zibaldone. Zibaldone. E buon pomeriggio a tutti, ben ritornati, ben ritrovati qui da Radio Contrabbanda. Io sono Steven Forti, questo già lo sapete è un programma in italiano, non solo per italiani, in onda tutti i venerdì pomeriggio dalle 18 alle 20, al di là di qualche settimana che ci prendiamo un po' di vacanza come le ultime in occasione della Semana Santa, della Pasqua, che in Spagna, lo sapete, si festeggia un po' di più che in altre latitudini, quindi ci si prende un po' più di vacanze. E il nostro programma lo ascoltate, vi ricordo, sui 91.4 FM di Radio Contrabbanda Barcellona, in streaming all over the world alla web di Radio Contrabbanda, e poi lo potete scaricare dal nostro blog in podcast zibaldone.contrabanda.org. Oggi 14 aprile, puntata ricca, micifico, una puntata che abbiamo voluto titolare in un modo forse un po' particolare: la solitudine del postino. Parleremo di postini, parleremo di solitudine, beh sì e no, insomma tutto sarà attraverso la musica, come spesso succede all'interno delle due ore del nostro Zibaldone. Cominciamo subito con una canzone che ci parla in qualche modo di solitudine, vediamo se riconoscete chi la canta. Io non mi muovo più perché cammino contro vento, magari ci capisco un po' di più se mi muovo solo dentro. E non ci sento più da quando non ti sento. Sento solo freddo e tu, sarà che il cuore è spento. Vieni con me a vedere la mia solitudine, ti porto con me a vedere la mia solitudine. Non mi innamoro più, ti giuro, non mi innamoro. Non lo faccio più. Se non mi vedi più, ferma una volante della polizia o mettici una pietra su, tanto sai che è solo colpa mia. Non lo faccio più. Sali da me a vedere la mia solitudine. A vedere la mia solitudine. Non mi innamoro, amore, giuro. discoteca Solitudine con queste sonorità un po' particolari per quello che ci aveva abituato. Vi abbiamo proposto il primo brano di questa puntata di Zibaldone, il primo brano anche del nuovo album di Dente. Sì, sì, era lui, era proprio lui. Discoteca Solitudine, Hotel Souvenir, il suo nuovo disco, l'ottavo, uscito lo scorso venerdì 7 aprile. Un disco particolare, un disco molto atteso, ma insomma, prima di parlarne voglio anche dare il benvenuto e dare il buon pomeriggio al nostro caro Banzo, ossia l'ergonomico Enrico Banzola. Banzo, bentornato a Zibaldone, come è andata la Pasqua? Buon pomeriggio Steven, buon pomeriggio a tutti. Diciamo che la Pasqua è andata, non ci sono stati miracoli né resurrezioni, ma insomma, viste anche il mio curriculum religioso, era da facile preventivarlo. E abbiamo cominciato con questa canzone, visto che mi citi la Pasqua, di Dente. Hai detto primo brano, nel senso che ne trasmetteremo un altro, perché non è sì, la prima canzone del disco. Ecco, diciamo la Pasqua, perché per me è una cosa un po' strana. L'ascoltavo e pensavo che ha questa atmosfera da domenica mattina. È una canzone che mi piacerebbe ascoltare la domenica mattina. È una cosa molto strana, però mentre mandavamo il pezzo l'ho sentita fortissimo. Comunque sì, è un po' diverso dal Dente più intimista che conosciamo. C'è una varietà di arrangiamenti nel disco, però ecco, anche le sue atmosfere più classiche sono presenti in questo nuovo Hotel Souvenir. Sì. Tra l'altro è un disco che è stato anticipato da alcuni singoli, che conta con parecchie collaborazioni. Ci sono per esempio i Post Nebbia, che avevamo già presentato qui su Zibaldone. Ci sono i Selton, che da anni accompagnano Dente. Ma poi, come ascolteremo anche nel prossimo brano che vi proponiamo, Il Mondo con gli Occhi, ci sono le collaborazioni di tanti artisti, insomma, molto conosciuti, molto amati, che abbiamo proposto spesso anche noi qui da Radio Contrabbanda, come Fulminati, Colapesce, Dito nella Piaga, Di Martino. La canzone si intitola Il Mondo con gli Occhi, è un brano un po' diverso rispetto a quello che abbiamo ascoltato, e Dente lo presenta come una risposta sarcastica all'orgia di featuring del mondo trap. Tra l'altro, oltre ai già menzionati, ci sono anche Giorgio Poi e VV o VV, non so come si pronuncia, all'anagrafe Viviana Colombo. È un album che si è fatto attendere. Mancava da 3 anni Dente, dopo l'omonimo album, appunto intitolato Dente, che è uscito 3 anni fa, e tanti altri dischi che ci aveva presentato anche qui a Zibaldone. Ricordo che Dente era stato nostro ospite. Vediamo se magari prossimamente riusciamo ad averlo di nuovo con noi. Andiamo subito a bomba, Banzo, con quest'altra canzone da Hotel Souvenir di Dente, Il Mondo con gli Occhi, e poi rientriamo anche per parlare un po' e spiegare ai nostri ascoltatori che cosa abbiamo in serbo per loro in questa puntata di Zibaldone, perché appunto ci sarà tanta musica, tante news provenienti da diverse latitudini. Oh, quante sono le sopracciglia, ma quanto è lunga le 1000 miglia, da dove passa la via Emilia, e di mestiere che cosa fa il tuo papà? Ho fatto pugni coi banditi, mi piacciono i tuoi vestiti, come si evitano le viti, se non lo sai ti insegno io come si fa. E guardo gli occhi con il mondo di un bambino, che guarda gli occhi con il mondo di un bambino, che guarda gli occhi con il mondo di un bambino. Oh, consigliami dei consigli, ma come fanno i maghi coi conigli? Pigliamo degli appigli, chi me lo dice quando finisce l'eternità? L'eternità. Oh, l'ho contata d'una ad una, t'ho condito con la luna, ma come te non c'è nessuna. Ma come fai senza di me? Ma vieni qua e guardo gli occhi con il mondo di un bambino, che guarda gli occhi con il mondo di un bambino. Come com'è, che cosa c'è, che cosa c'è? Com'è che c'è com'è? Com'è che c'è? Beh, avete sentito anche questo brano, è molto particolare, come sonorità banjo è diverso, però ci sono sempre questi giochi di parole continui a cui ci è abituato Dente. Bravissimo, bravissimo, volevo proprio dire quello, che è una canzone che si segnala per il gioco di parole, ovviamente guardo gli occhi con, guardo il mondo con gli occhi di un bambino, che diventa guardo gli occhi con il mondo di un bambino. Sì. Che questo spostamento dei componenti della frase, diciamo che crea un significato molto indefinito, però è affascinante, ecco, cercare di visualizzare cosa potrebbe voler dire questa frase in concreto, anche se si può rimanere a livello del divertissement, e secondo me funziona già così, ecco. E comunque sì, come dicevo, ci sono anche canzoni con un'atmosfera diversa. Per cominciare vi abbiamo proposto due brani abbastanza solari, ecco, però è un disco che presenta anche altre anime. Eh sì, anche musicalmente, ballate più classiche, c'è la bossa nova con il coro appunto dei Selton, brasiliani, per questo, insomma, queste musicalità, questi ritmi in genere sono associati ai Selton, poi appunto c'è l'ironia costante di Dente, c'è anche molta sincerità e disillusione, c'è molta autobiografia. Comunque vediamo se magari riusciamo a parlarne con lui in un'intervista prossimamente. Disco che è uscito lo scorso 7 aprile, che durante il mese di maggio si presenterà in giro per l'Italia, Bologna, Roma, Firenze, Milano, Torino, insomma queste sono almeno le prime date, quindi dateci un'occhiata se vi piace Dente. Banzo, noi andiamo avanti con altre news, prima però volevo dire insomma che la puntata di quest'oggi, la solitudine del postino, ha a che fare ovviamente con Discoteca Solitudine, che è il primo brano, questo titolo, primo brano di Dente con cui abbiamo aperto la puntata di quest'oggi, e il postino ha a che fare invece con il nuovo disco dell'invitato di quest'oggi, Jordi Pelac, che sarà a breve con noi e che ci parlerà appunto del Carter, il postino appunto in catalano, che è il titolo del suo nuovo disco, ma insomma questo ce lo spiegherà lui. E poi avremo tante canzoni, tanta musica che ci arriva dall'Italia, come il prossimo artista Porfirio Rubirosa, ma poi ne scoprirete anche altri che arrivano da diverse latitudini, anche da non solo dal presente ma anche un po' dal passato. Dal futuro ovviamente è impossibile per ora. Banzo, il prossimo artista, sì, comunque Steve, prima di passare al prossimo artista, hai fatto bene a specificare il titolo della puntata, perché l'avevi già lanciato nell'arena, specificare il perché del titolo. E effettivamente poteva sembrare uno speciale dedicato a Massimo Troisi, che volendo potremmo fare a un certo punto della nostra storia, però effettivamente non c'è neanche la coincidenza di un anniversario in questo momento. No, si trattava del nuovo disco di Jordi Pelac, del quale parleremo con lui a breve. Altro artista che insomma a cui abbiamo dedicato tempo qui a Zibaldone, tempo meritatissimo, è Porfirio Rubirosa. È uscito da poco anche il suo nuovo album, Il Furore Composto. Andiamo subito ad ascoltarci un brano e poi ne parliamo un po' e raccontiamo un po' di che va, come si dice in spagnolo, di che cosa parla questo Furore Composto. Un accidioso, questo è il primo brano. Torna dai campi con la moglie che è in sella al mulo, le unghie rigate di nero, la pelle tagliata dal sole, il volto scuro, i pari paesani al bar commentano davanti a un bicchiere di vino. Lui fatica tutto il giorno e lei comoda sul mulo. È proprio un cretino. Il contadino torna dai campi in sella al mulo e la moglie a piedi. Sfiniti dal caldo che se guardi bene in fondo alla strada perfino i vapori li vedi. Paesani bisbigliano ingollando a lunghi sorsi un aperoni. 40 gradi all'ombra, lui comodo e lei a piedi. Andrebbe appeso per i coglioni. Tornano dai campi entrambi in sella, stanchi, sporchi, bruciati in silenzio, pensando a una zuppa, un cucchiaio e una scodella. I paesani dicono la loro con in mano un bianco sarti. Doverne portare non uno ma due sulla groppa. Che bastardi. Il contadino e la moglie tornano a piedi e il mulo se ne sta dietro. È sempre duro il ritorno a casa, come salire la cupola di San Pietro. Dell'ombra di un muro scrostato fumando muratti. Questi c'hanno il mulo e neppure ci salgono sopra. Più scemi che matti. Ora la moglie a casa alle prese col mulo. Con la moglie ed il mulo arriva in paese. E vabbè, Porfirio Rubirosa a me piace moltissimo, Banzo, un accidioso, il furore composto è il titolo del suo nuovo disco uscito in questo 2023. Prima però di parlare di questo disco forse vale la pena ricordare un po' chi è Porfirio Rubirosa, perché magari a qualche nostro ascoltatore, forse quelli più attempati, questo nome dice qualcos'altro, dice vabbè, ma Porfirio Rubirosa è morto nel 1965. Esatto, perché chi è Porfirio Rubirosa? Stiamo parlando del musicista o di questa figura morta nel 1965? Evidentemente non può avere pubblicato un disco il 28 febbraio 2023, ma Porfirio Rubirosa era uno di quei personaggi che gli americani avrebbero definito bigger than life, cioè più grandi della vita, cioè un diplomatico, pilota automobilistico, playboy, dominicano, giocatore di polo, giocatore di polo, giusto, importantissimo, bellissimo sport il polo, sono sarcastico, scusatemi, e appunto un personaggio anche noto per il suo stile di vita sopra le righe, e c'è una similitudine con un altro artista musicale che personalmente ci piace meno di Porfirio Rubirosa, cioè quello di adottare il nome di un personaggio realmente esistente. Mi sto riferendo ad Achille Lauro, che come forse ricorderete ha anche rappresentato San Marino a Eurovisione, è una storia vera. Sì, sì. E comunque il nostro Porfirio Rubirosa, quello che ha inciso il disco del 2023, non il Playboy domenicano morto nel 65, si chiama in realtà Giovanni Albanese, è veneto e ha prodotto questo nuovo disco a 3 anni di distanza da Breviario di Teologia Dadaista del 2020 che avevamo proposto ai tempi. Allora, questo Il Furore Composto, da questo primo brano forse non si capisce, abbiamo detto un accidioso, il titolo è un concept album sui 7 peccati capitali con 7 brani esatti e ogni titolo rimanda a uno dei peccati, o cioè a uno dei peccatori per meglio dire, perché abbiamo un superbo, un avaro, un lussurioso, un invidioso, un goloso, un iracondo e l'accidioso a chiusa del disco. E anche questa modalità dei titoli mi ricorda in qualche modo Fabrizio De André. Sì. Peraltro anche il brano Uniracondo, che non vi faremo sentire, quindi diciamo che sto spoilerando, perché adesso me ne facciamo sentire un altro, a me ricorda un po' De André, però ne abbiamo scelto un altro per approfondire questo disco, che comunque è molto interessante e presenta la caratteristica cifra stilistica che già avevamo conosciuto a Porfirio e Ruby Rosa, cioè una vena surreale e dadaista veramente incontenibile, anche se molto lucida. E infatti, insomma, lui si definisce, o lo definiscono, il capo dei dadaisti, il Porfirio Ruby Rosa, artista di cui stiamo parlando. E tra l'altro, Banzo, io ho apprezzato molto che abbia citato le Muratti nella canzone, sigarette che non vengono più fumate molto, e soprattutto io non so se sono mai state citate in una canzone. Detto ciò, volevo anche accennare una cosa al Porfirio Ruby Rosa realmente esistente, quello morto nel 65, perché la sua morte è molto particolare, perché morì riassume molto bene la sua vita, morì in un incidente automobilistico schiantandosi contro un albero in un parco parigino, con una macchina molto bella, una Ferrari 250, lui aveva fatto anche due 24 ore di Le Mans negli anni precedenti, dopo aver festeggiato la vittoria in una competizione di polo, il Coupe de France, quindi insomma dopo aver festeggiato, ecco, quindi insomma riunisce. E l'ultima cosa interessante, al di là che il fatto che insomma ci sono molte ombre nella sua vita, perché Porfirio Ruby Rosa appoggiò il dittatore Trujillo in Repubblica Dominicana, fu anche membro del suo governo eccetera, e poi insomma diplomatico in giro per il mondo, ma si dice anche che può aver ispirato la figura di 007, insomma di James Bond, anche se su questo non ci sono certezze. Lasciamo da parte Banzo il Porfirio. Dimmi. Steven, prima di passare alla seconda canzone di Porfirio Ruby Rosa, il cantautore, stavo pensando che diventa quasi necessario presentare una biografia del Porfirio Ruby Rosa domenicano in uno dei prossimi libri della settimana. A questo punto, insomma, ci metteremo a lavorare su questa prospettiva, perché merita. Insomma, appunto, sono i fatti che si impongono con la loro forza. Sì, merita. Però andiamo avanti con il secondo brano dal Furore Composto, Un Invidioso, Porfirio Ruby Rosa. Odio gli intellettuali e i loro fiumi di parole, come quando fuori piove, odio quando splende il sole. Odio tutti i ben pensanti di cui c'ho le tasche piene, ben pensare è deleterio per chi vuol pensare bene. Odio chi abbassi al contrario per potersi dare un tono, odio gli anticonformisti in posa col vestito buono. Odio pure gli ignoranti, odio gli esseri pensanti, vivi morti donne e uomini, odio proprio tutti quanti. Odio tutto, anche l'odio, qui l'ho detto, qui l'ho scritto, è una gara in solitaria in cui non esci mai sconfitto. È molto meglio dell'amore, quello è proprio un altro mondo in cui il traguardo è più felice, chi lo taglia per secondo. Odio Odio i vecchi ed il concetto che si stava meglio ieri. Tutti quanti gli incendiari c'han la tuta da pompieri. Odio i giovani che godono nel dare dispiaceri. Una cosa è certa, che si stava meglio ieri. Odio lo sguardo di un bambino in attesa di risposta. Marcantonio, Bragadine, l'assedio a Famagosta. Odio politici, tifosi, preti, santi, imprenditori, attori, giudici, avvocati. Odio pure i cantautori. Odio tutto, anche l'odio, odio pure il sottoscritto. È una gara in solitaria in cui non esci mai sconfitto. È molto meglio dell'amore, quello è proprio un altro mondo in cui il traguardo è più felice, chi lo taglia per secondo. A odiare ormai non c'è nemmeno più gusto. Lo fanno tutti, meglio evitare. Dovrò inventarmi qualche cosa da fare. L'invidia sembra il compromesso giusto. Invidio tutti e lo faccio di nascosto, stando zitto. Siamo in tanti ma nessuno che lo metta per iscritto. E comunque la mia faccia ci ha stampato un bel sorriso. Per ogni cattivo gioco faccio sempre il mio buon viso. E comunque la mia faccia ci ha stampato un bel sorriso. Per ogni cattivo gioco faccio sempre il mio buon viso. E comunque la mia faccia ci ha stampato un bel sorriso. Intanto un nuovo vizio all'improvviso. Eh beh sì, questo era proprio invidioso Banzo, bisogna dire la verità. Ascolta, noi adesso dopo Porfirio Lupi Rosa troviamo in realtà un altro artista che ha scelto il nome di un personaggio reale. No, in realtà non è proprio così, Steven, perché non l'ha scelto, sembra proprio che sia il suo nome e abbia preso questa decisione di adottarlo anche come nome artistico. Come nome artistico, perché non è dato sapere, adesso mi chiarisco, non è dato sapere il nome, abbiamo solo un cognome che è abbastanza imponente, Andreotti. Sì. C'è anche una canzone di Baccini che si chiama Andreotti, Cosa mi vai a tirare fuori? Sì. E poi c'era un gruppo di Bologna, punk di Andreotti, dalla vita brevissima. Avevo anche dedicato un pezzo alla svolta della Bolognina, spronando Achille Occhetto a ripensarci o ad averci pensato meglio al suo momento. Comunque, tornando a questo Andreotti, sembra che sia il suo cognome, è un polistrumentista, oltretutto romano, quindi nel senso proprio è il luogo del diritto, di famiglia. Per quanto Roma sia grande, non è dato di saperlo, però il cognome esiste e nella zona di Roma è presente. È un polistrumentista romano, classe 1993, attivo discograficamente più o meno dal 2020, una pletora di uscite, qualche album, qualche singolo come questo che vi faremo sentire. E a livello di sonorità siamo, diciamo, dalle parti della neopsichedelia vintage, un po' lo-fi, è un suono indefinito, un po' vago, affascinante nella sua vaghezza. E fra i riferimenti che ho trovato ce n'è uno che mi ha convinto, anche se non va preso troppo alla lettera, cioè i Tame Impala, se li avete presenti. C'è questa atmosfera sognante, anche se secondo me questo brano è diverso, come per darvi un riferimento, ma adesso lo sentirete voi. C'è quest'aria un po' più sfasciata in senso positivo in Andreotti, ecco. Ce l'andiamo a sentire. Camden Town è questo singolo uscito nel 2023. Lui è Andreotti, non Giulio, We'll be right back. E questo è Andreotti, Camden Town, il brano che vi proponiamo, ovviamente non di Giulio, come dicevo, ma la smetto già con questa battuta un po' ovvia. E Banzo, una battuta telegrafica dopo aver ascoltato Camden Town. Per questo pezzo mi è piaciuto tantissimo, per stimolarvi ad ascoltare altra musica di Andreotti, vi segnalo che ha prodotto due singoli nel 2022, ha prodotto altre cose, ma due singoli a titolo rispettivamente Giovanotti e Naziskin, Maneskin, Orietta Berti e Bruce Lee, quindi con il secondo con un riferimento ovviamente all'errore di Orietta Berti dopo la vittoria di Maneskin a Sanremo 2021. Ecco, secondo me è una bella lettera di presentazione. Eh sì, magari andiamo a riscoprirli anche noi. Comunque adesso passiamo alla musica catalana, perché è già con noi e lo sentirete a brevissimo Jordi Pelach. Vi proponiamo il primo brano dal suo nuovo disco. Ningue stima el carter, nessuno ama il postino. Questo è il brano, il primo brano che vi proponiamo, brano che dà anche il titolo all'album di Jordi Pelach, un disco che esce questo 18 aprile 2023. Abbiamo con noi Jordi Pelach, un caro amico, e por eso también pasamos al castellano. Jordi, bienvenido, o mejor dicho, un placer otra vez volver a tenerte aquí en Radio Contrabanda en Zibaldone. ¿Qué tal estás? Hola, ¿qué tal? Bueno, el placer es mío. Estoy muy bien, muy contento de estar aquí. Un gusto, un gusto tenerte. Amigos. Un gustazo, porque además es este un álbum nuevo, un álbum bueno que se hizo esperar hacía tiempo, ¿verdad, Jordi? Que nos harías, no publicabas un disco nuevo. Sí, sí, ha sido un largo silencio, podríamos decir. Son 7 años desde el último álbum, o 8 prácticamente, y bueno, espero que sea en favor de la calidad. Desde luego. Además, bueno, ya lo hablaremos porque es un disco, y aquí ya te lanzo la primera pregunta que tiene que ver con el título del disco, ¿no? Este cartero que nadie quiere, ¿no? ¿Quién es? Y por otro lado, ya decir una cosa y luego también le dejo la palabra al Banzo, que sé que tiene muchas cosas que preguntarte y que comentarte sobre este disco, que tiene que ver con la producción de ese disco, porque es un proyecto bien bonito que además, digamos, ha visto la colaboración de otros artistas activos aquí en Barcelona, italianos, por cierto, y amigos de nuestro programa, como son Flavio Ferri, Holden y Ulrich Sandner, ¿no? Sí, sí, sí, bueno, ellos han sido súper importantes, principalmente Flavio, pero bueno, Holden también ha sido muy importante porque es la persona que nos ha conectado, y también a Ulrich. Grandísimo guitarrista, que ha puesto gran parte de los sonidos excelentes del álbum, y la producción de Flavio, como ya he dicho, pues fundamental. Piensa que esta era una idea mía muy... que no sabía si tirarla adelante o no, porque no sabía si podía ser interesante, y tenía esta idea de disco conceptual que básicamente yo iba grabando cosas con el móvil. Y fue a partir que lo escuchó Flavio que puso leña a la estufa, ¿no? Y se empezó a tomar forma el proyecto, ciertamente. Entonces, volvemos a la cosa, porque luego yo empezó a hablar de otras cosas, de la producción, de Flavio Ferri, de Under, etcétera. El cartero, aquí, vamos a ver, porque además lo has dicho, es un concept album, y el cartero es lo que da el título también, no solo a la canción que acabamos de escuchar, sino también al disco. Sí, sí, es este personaje que, bueno, un poco es su historia. Esto nació a partir de la canción de este primer single que hemos escuchado, y que en principio era una canción aislada, que explicaba una historia que yo no sabía muy bien, pero a mí me hacía pensar en varias cosas. Que eso me gusta mucho cuando escribo algo que me hace pensar en varias cosas. Y bueno, era este personaje un poco atormentado, que intentaba hacer el bien, pero era rechazado. Y me parecía interesante pues por muchos temas, ¿no? Me hacía pensar en muchas cosas. También me hace pensar en los poetas, ¿no? Por ejemplo, que intentan hacer cosas bonitas, pero a veces no son comprendidos o... Un ejemplo, entre otras muchas cosas. ¿Banzo? Sí. Pues sí, hola Jordi. Hola. Entonces, el asunto es porque yo en realidad pues con Jordi hay una larga amistad, entonces digamos que ya con Steven un poco... más, A Steven lo he conocido antes. Ya sé un poco de qué va el asunto, digamos. Y digo, pues en realidad comentabas que todo el tema del disco conceptual nació a partir del tema del cartero. Nadie quiere al cartero. Pero pues yo sé que tú tenías material ya preparado que luego ha ido cambiando de forma para ajustarse a este proceso, ¿no? A este nuevo contexto creativo, ¿me equivoco? Sí, sí, sí. Yo tenía como unas 30 canciones, 27. A medio hacer, ¿no? Bueno, sí. Y vosotros me conocéis, sabéis que soy lento y desordenado a veces. A medio hacer, unas tenían una melodía, otras tenían una parte de texto. Entonces, después del cartel vino otra canción que también encajaba con esta historia, que era la que situaba el contexto de una guerra extraña, ¿no? Muy, muy a lo Buzzati. No sé si lo pronuncio bien, perdonad. Sí. Bueno, fueron sobre todo 2 o 3 canciones que me encajaban mucho. Y luego hubo otras que compuse aposta y otras que o no tenía letra terminada o sí la tenía terminada y la cambié para que me sirvieran para el desarrollo de esta historia conceptual. Y entonces, antes de pasar a escuchar otro tema del disco, ¿nos quieres dar alguna indicación más sobre la historia? Porque hemos hablado de un cartero, hemos hablado de una guerra... Y yo sé que, y hemos hablado de atmósferas a lo Buzzati, pero yo sé que en general la historia se desarrolla un poco en un contexto indeterminado, ¿no? Sí, para mí es importante porque no quería que nadie pensara que estoy hablando de alguna cosa concreta o actual o política, aunque todo es política, por supuesto. Bueno, es un cartero en este contexto de guerra, una guerra extraña, ya que prácticamente no es que haya un Estado, sino es el pueblo que está en guerra contra un pueblo pequeño, y todo en este clima desértico, así muy tirando al Far West, que es al final como decidimos también hacer los arreglos. Y sí, hay este contexto de una guerra extraña, donde él, al ser la persona que lleva las malas noticias, sería el portador de realidad en un pueblo fanatizado, donde la propaganda de guerra ha hecho mella en las personas. Entonces lo cogen como enemigo, cuando él lo que intentaba era ayudar, ¿no? Hacer una función útil y que no fuera participar de la guerra, porque es un personaje antimilitarista. Y bueno, a partir de ahí se desarrolla la historia y, por supuesto, pues hay una chica, o, bueno, hay el amor, podría ser un chico también, pero es una chica. Hay el amor, hay también un viaje interior, porque es el pueblo de su infancia y bueno, muchas cosas que encontraréis en el álbum cuando lo escuchéis entero muchísimas veces, porque es un disco que necesita ser escuchado muchas veces. Yo solo lo digo así como consejo, luego cada uno. Entonces, sí, para seguir profundizando el discurso, yo pasaría al próximo tema, pues que es la canción que pues estrena el disco, digamos, el primer tema, que se llama Gloria a las Piedras. Y aquí lo vamos a escuchar. Sí. Pues sí, venga. Lo escuchamos y luego, Jordi, a ver qué nos comentas, pero antes lo dejamos también escuchar a nuestros oyentes. Aquí va. No hay diferencia entre pedras y humanos. Ellas también viven con unos ojos más grandes. Gloria a las piedras que te veuen pasar. Viatge de tornada, estàs començant. On has estat que no et veiem? Què has estat fent? També es mouen amb uns temps més llargs. Glòria a les pedres que et veuen passar. Viatger de tornada, estàs començant. Serà a partir d'ara, esquinçaré el vel de la... Gloria a las Pedres, este es el título del segundo brano, que segunda canción que os proponemos de Jordi Pelac. Jordi, que antes te interrumpí, ¿qué querías contarnos sobre esta canción que acabamos de escuchar? Ah, bueno, no me interrumpiste. Bueno, es la primera canción del disco, es cuando esta persona, el cartero, vuelve a su pueblo con esta oferta de trabajo de cartero, entonces todo parece bonito. Y tiene este diálogo con las piedras, que son un poco un personaje de la obra, que las piedras un poco, de una forma un poco críptica, nunca mejor dicho, le transmiten que igual no todo va a estar tan bien, ¿no? En esta, el disco tiene un aire western, country, americana, como le queráis llamar, y en esta decidimos pues hacer la gran fiesta country, ¿no? Como habéis escuchado. Efectivamente. Es la canción que más se ajusta a los cánones y además hay que decir que la participación de Arlo Bigazzi, que puso unos bajos en esta canción y en otras, y bueno, pues agradecerle, si me escucha, su colaboración, ya se lo he dicho, obviamente. Pues decías que prácticamente la trama había ido determinando la dirección de los arreglos y en esta dirección, digamos, country western, pero pues este es el ejemplo más, digamos, country western, para repetirnos, pero en general digamos que hay todo un espectro que, como indicabas, pasa de la americana al folk, y es muy diferente, por ejemplo, del estilo que habías propuesto con el disco anterior, La Cambra Freda, ¿no? Sí, la verdad que sí. En el anterior disco creo que era más de cantautor europeo, aunque yo siempre, en mi forma de componer, creo que hay cosas muy americanas a veces, porque me gusta y porque me sale así también. Pero sí, el anterior creo que era más de cantautor europeo, acústico, con unas letras más abstractas, un poco más afrancesado incluso. Y en esta escogí, porque me apetecía y porque encajaba, pues tirar más por esta banda americana, ¿no? Y esta canción que hemos escuchado es de las más representativas. Luego, por supuesto, hay temas más folk, temas más indie, porque no soy un cantante country, por supuesto. Solo es utilizamos un poco el género para apoyarnos y para dar más coherencia a la historia. Creo que es importante volver a hablar de los con más detalle de los colaboradores que te han acompañado. Como hemos dicho, que el productor del disco es Flavio Ferri, y creo que faltan algunos músicos por mencionar, sí, ¿no? Que han colaborado. Productor y bajista, luego está Marta Rosell, que es mi mujer también, que ha puesto unas flautas muy chulas. También a Alex Carmona a la batería. Y bueno, como he dicho, Arlo Vial tiene algunos bajos. Y Flavio, aparte de productor, ha puesto los bajos en casi todas las canciones, a excepción de tres. Y bueno, Olden, aparte de ser el conector que me ha presentado toda esta gente, aunque a Ulrich ya lo conocía, también ha puesto unos coros magníficos. Olden es un cantante espectacular y un tío muy guapo, además. Por cierto, es una afirmación bastante contundente. Ya, bastante cuestionable, diría bueno. Yo. Dicho lo cual, Jordi, volviendo un poco en cambio a lo del concept album, me pareció muy interesante lo que explicabas. Hemos escuchado ahora Gloria a las Pedras, que es un poco, ¿no?, el comienzo de este viaje, de este cartero, y nos has dibujado un poco, ¿no?, el ambiente de fondo, esta guerra, sí, este mundo Aladino Buzzati, etcétera, etcétera. Pero luego, sin, digamos, hacer demasiado spoiler, al final, ¿qué pasa en esta historia? ¿Dónde acaba este cartero? ¿Qué le pasa en esta aventura? Bueno, no acaba bien, no acaba bien. No, no es muy optimista, ¿eh? No sé si es hacer demasiado spoiler. Sí, yo cuando pensé en la historia, pues pensaba en estas historias que empiezan mal y acaban peor, ¿no? Hay como una bajada. Y a mí me parece chulo porque, bueno, es un disco que puedes volver al principio cuando están todos vivos, ¿no? Entonces no es que se acaba nada, luego puedes volver y disfrutar estos momentos, ¿no? Bueno, como hay una guerra, como hay fanatismo, era difícil que acabara bien la cosa. Tengo que decir que eso, mira, hay una anécdota que os puedo contar quizá rápido, que yo tenía una última canción preparada que era un poquito más optimista, era triste. Pero Flavio me dijo que era una mierda y que hiciéramos otra. Y la última, y estuve de acuerdo porque me lo argumentó, y la última pues es una canción súper oscura y... O sea, tú querías poner un happy end, ¿no? Un final feliz, pero sí, al final te lo han tachado, han dicho no, ni hablar. Sí, no, no era happy, pero sí, era un poco más, no sé, triste, pero como esperanzador. Ya. Y no, pues no, ¿para qué? No, al final. Oye, Jordi, antes de pasar la palabra al banzo y luego ir a escuchar un tercer y último tema de tu disco, la última pregunta que te quería hacer. Es cierto que tú nos has contado que digamos, es un viaje, ¿no?, a este concept álbum. Sí. Pero imagino que lo que está pasando en el mundo, lo que ha pasado en tu vida, en nuestra vida en los últimos años, haya influenciado un poco, de alguna manera, ¿no?, el concept álbum que has creado. Sí, bueno, claro, tú eres experto del tema. Yo creo que el tema de la polarización, pues en cierta parte está ahí, ¿no? En ese pueblo que rechaza al cartero simplemente porque dice la verdad, ¿no? Uh-huh. Que no, ni la decide él, simplemente transmite una información, ¿no? Yeah. Y eso, por supuesto, pues forma parte de mi entorno y seguro que me ha influenciado en gran manera, ¿no? Y luego, pues de tema personal, pues sí, claro, igual el hecho que sea un poco oscuro, pues bueno, pues tiene que ver con nuestras vidas y con los problemas que nos encontramos y con que nos hacemos mayores, ¿no? Yo también cuando lo hacía pensaba mucho que era un disco de 40 años, ¿no? De la madurez, de la madurez, ¿no? Como se suele decir. Que le das la vuelta al jamón, ¿no? Que dicen, bueno, lo dicen de los 50, pero puede servir. Bueno, o de la tortilla. Banzo. Sí. Entonces, antes, dejándonos de metáforas gastronómicas y antes de pasar a escuchar el tercer tema, te quería preguntar cuáles son los planes de promoción que tienes para este álbum. Bueno, pues tengo un concierto el día de San Jordi, el 23 de abril. Muy bien. Presentación en un sitio que me encanta, la Taberna del Subirá. Muy bien, ¿dónde queda? Es un sitio que está arriba de una montaña, cerca de mi pueblo, pero también está lejos de mi pueblo, porque está arriba de una montaña, cuesta mucho llegar, así que si no viene gente tengo la excusa, no es broma. La Taberna del Subirá, ¿no? Sí, es un sitio donde se hacen mucha cultura, el propietario es un tío fantástico que apuesta mucho por la cultura y a veces ahí se montan unos pollos importantes. ¿A qué hora es eso? Eso será pues después de comer, ahí normalmente se come y porque es un restaurante muy bueno. O sea que tocarás con la barriga llena, ¿no? A la hora de los cafés sí intentaré contenerme porque luego pasa eso de los eructos delante del micrófono y los pedos y demás. Efectivamente. Y mejor que no. Bueno, eso el 23 luego, de abril. ¿Y luego qué más? Luego tengo el 3 de junio en la Sala Continental en Barcelona. Que por supuesto estáis invitados, amigos. Además es gratis. O sea, así estaremos. Porque la idea es que pueda venir cuanta más gente mejor. Presentar el disco con la banda también, con todos estos colaboradores, menos Arlo, porque está en Italia, imagino. Y más cosas que pueden salir que no tengo cerradas, pero que espero pronto ir en mis redes sociales, en Instagram, etcétera. Instagram, Facebook, ahí invitamos a la gente que entre, que además ve muchas cosas interesantes también en relación a este disco que estamos presentando hoy. Jordi, Banzo, nos despedimos con una canción, lo has dicho tú antes, Banzo, el título no. Jordi, te dejo lanzarla a ti, presentarla muy brevemente antes de pincharla. Muy bien, pues me hace mucha ilusión presentaros esta canción. Es la única que estoy yo solo con la guitarra, luego Uli puso unas armónicas. Y bueno, yo pienso que es una canción muy tipo Johnny Cash, muy oscura, muy del final y donde me reivindico un poco como cantautor, ya sin tanta banda, sin tanta instrumentación. Pues la vamos a escuchar. Se titula No, él es Jordi Pelac, nos ha acompañado hoy aquí en Zibaldone para presentarnos su nuevo disco muy esperado tras casi 8 años, Ningú estima el carter. Jordi, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Gracias a vosotros, amigos. Os quiero mucho. Un abrazo. Igualmente, te queremos. Un abrazo fuerte. Venga, chao. He fet tots els papers de bo i dolent, de tendre i fred. Ja tinc alguns bitllets cap a cap tren, ja s'han fet pell. Això no em diguis que no. Que aquest ocell sento jo també i és bastant semblant. El que no ja passa, ara no existeix. Tot creu que ja no em veus, no era teu, sempre he estat del rei. Oh, no em dis això, no vulguis quedar amb tota la raó. Passat que et portarà al costat d'un jove que no sóc. Ja he sabut que hi ha tant que no puc i que els meus altres jo no estan vius ni molt. Oh, oh, oh. No em diguis això, no em diguis que no. Que tu sents, ho sento jo també, i és bastant semblant. El que no volem. Ah! Vabbè, vi chiederete, ma come mai, insomma, dopo aver ascoltato nuove uscite italiane, aver parlato con Jordi Pelac di questo suo nuovo album, da sonorità molto moderne, insomma, per così dire, facciamo questo salto indietro banzo agli anni 60 con questa Apalos dei Los de la Torre? Perché, insomma, perché lo dico subito già prima di passarti la parola, perché è arrivato il momento della sezione d'Italia Otra Parte, in cui andiamo a scoprire canzoni italiane interpretate, tradotte in spagnolo e interpretate in lingua spagnola da artisti appunto della penisola iberica o latinoamericani, in questo caso banzo i Los de la Torre. Esatto, e bisogna tornare indietro nel tempo perché evidentemente nel passato questa pratica era più frequente di quanto non sia adesso, quindi è facile tornare agli anni 60. I Los de la Torre comunque erano un terzetto di fratelli barcellonesi attivi fra il 67 e il 72, hanno un disco all'attivo e una marea di singoli, come più di 20, e sostanzialmente vengono anche considerati fra gli anticipatori dello ska in Spagna, perché hanno un singolo che menziona lo ska nel nome del 67. Io ho sentito un brano, a me non sembra assolutamente afferente alle sonorità del primo ska giamaicano. Comunque, tornando a bomba, i Los de la Torre prima, fra il 64 e il 66, erano noti come i Los Quattro de la Torre, perché oltre ai tre fratelli c'era anche un cugino, quindi è stato un affare di famiglia, e hanno anche inciso qualcosa in catalano con il nome Els de la Torre, cioè cambiava l'articolo dal Los spagnolo a Els in catalano. E niente, la canzone è famosissima, sì, ovviamente, di Antoine, scritta da Ricky Gianco e Gian Pieretti. Pietre in Italia credo che continui a restare un classico assoluto degli anni 60, e però è interessante, voi sapete che a me piace un po' lanciarmi nella difficile questione dell'adattamento dei testi, e qui è il titolo che è interessante, perché sì, Pietre molto. Diventa Apalos. Allora, il termine palo, se andate a cercare il dizionario della Real Accademia Spagnola, ha una quantità di significati, anche uno collegato al flamenco, però sostanzialmente diciamo che si potrebbe tradurre, adesso correggimi se sbaglio, con ammazzate bravo, italiano. bravo Banzo. Cioè tipo, se fai questo sarai preso a mazzate, se fai quello sarai preso a mazzate. Ecco, quindi diciamo che la traduzione, per quanto non letteralmente fedele, concettualmente è perfetta. Eh sì, sì. Perché rispecchia proprio il significato del brano originale. Qualunque cosa tu faccia, ne prenderai. Ed effettivamente siamo passati dalla lapidazione alle mazzate, ecco. Eh sì, insomma, anche queste cose sono sempre molto interessanti, di questi adattamenti e delle traduzioni. E dei Los de la Torre, quest'oggi, Banzo, proponiamo anche un altro brano, non so se lo vuoi presentare, si intitola Saber Perder, l'originale era scritto da Lucio Dalla, e Bisogna Saper Perdere, con ovviamente i Rox. Beh, devo dire che mi sembra anche coerente, perché dopo essere stati presi a mazzate bisogna, ecco, accettare la sconfitta, ecco, perché sennò, Steven, tu mi insegni, si entra in una spirale di vendette senza fine, quindi... Sennò si finisce come l'invidioso di Porfirio Rubirosa. Esatto, io veramente quando ho selezionato i brani non avevo pensato a questa curiosa coincidenza. Però è così. Prima di trasmettere il brano, volevo segnalare comunque che i Los de la Torre, nella loro breve carriera, come ho detto, hanno attinto altre volte dal serbatoio italiano, perché c'è anche un altro brano di produzione italiana, cioè E allora dai di Gaber, che diventa E ahora che in spagnolo. Però abbiamo scelto Saber Perder, che adesso vi facciamo sentire. Eccola qui. No debes odiarme si ella me ama tanto a mí y comprende ahora lo que yo sufrí por ti. Tú tienes que saber perder, tú tienes que saber perder. quisiera verte así llorar siempre por mí. Piensa que aún no es tarde si me quieres de verdad. Yeah. Tú tienes que saber perder, tú tienes que saber perder. No siempre se puede. Circondato da 12 agenti segreti e da Minzolini che riferisce le sue parole. Donald Trump in tribunale a New York per rispondere con delle perline e poi recitare due preghiere. Il tycoon accusa Manhattan di parte spostare il processo a Tivoli. Indagano anche le procure di Cagliari e Udine. Il ministro San Giuliano. Sarà il pubblico a casa a decretare il vincitore? Il professor Zangrillo sulle condizioni di Berlusconi compatibili con un attacco da parte di un grosso animale. Tutto secondo gli standard attesi sta rispondendo alle terapie per difendere l'uomo e i suoi diritti. La sua vita e la sua opera sono parte di noi. Nella notte sarà acceso il cielo e sarà annunciata la resurrezione. Da Napoli a Bologna, tanti alla scoperta dei ristoranti, luogo della nostra identità. I pranzi, record per durata, perché nessuno resti in piedi. Telefonata di auguri dalla Premier Meloni. Per albicocche, pesche e ciliegie, fieramente schierati con chi produce ricchezza, nonostante i migranti. Sul PNRR Salvini, in linea con la maggioranza, tenta di sparare involontariamente con l'arma del vicino, tutto secondo gli standard attesi. Spero di cavarmela, scherza, non ho diffuso atti secretati, ma solo un rosario. Tajani, a maggio speriamo di sprecare tutti i fondi, vuol dire libertà. Il presidente francese Macron e Ursula von der Leyen cercano l'appoggio di Vittorio Sgarbi per mettere fine alla guerra da un locale della Movida milanese con la scusa di volerla aiutare. Generica apertura di Pechino. Chi non rispetta le regole esce dallo stadio. Tra i morti, colpo della Cremonese che da oggi fa parte della NATO. Siamo qui ancora una volta. Siamo sicuri che adesso si svolta. C'è il bando che sta parla fuori onda. Occhio che il capo s'arrabbia. Radio Contrabanda, siamo in onda. Steven fa la domanda. Siamo qui ancora una volta. Siamo sicuri che adesso si svolta. C'è il bando che sta parla fuori onda. Occhio che il capo s'arrabbia. Radio Contrabanda, siamo in onda. Steven fa la domanda. Radio Contrabanda, siamo in onda. Steven fa la domanda. Eh sì, la domanda la faccio, Banzo, perché insomma queste ultimissime del nostro caro Fausto De Salvia, che salutiamo e ringraziamo, ci mostrano, come spesso succede, una realtà un po' diversa a quella che appare sui giornali o che vediamo nei telegiornali. Ecco, io comincerei subito dalla notizia bomba finale sulla Cremonese. Grazie, Steven. Io volevo cominciare proprio da lì perché mi hai letto nel pensiero. È effettivamente una notizia sconvolgente. E comunque indica, ricordo ad esempio l'Atalanta che fece la Coppa delle Coppe a fine anni 80 giocando in Serie B, indica che anche se i risultati sul campo in campionato, non sono magari esaltanti, ci si può togliere delle soddisfazioni in campo internazionale, ecco, questo sembra sì. Proprio il caso della Cremonese, che adesso non, se ci ascolta qualche tifoso della Cremonese non gliela voglio mandare, però sia la situazione in campionato che in Coppa Italia nel momento in cui parlo è complessa, però appunto è entrato nella NATO, quindi se vengono aggrediti da ultra avversari si può dare il via a un'escalation militare, ecco. Ecco. Poi dall'altro, insomma, i grandi protagonisti sono i leader della maggioranza del governo, oltre all'ex presidente Donald Trump. Ma guarda, partirei da Trump, perché non so, questa richiesta di spostare il processo da Manhattan a Tivoli mi ha sconcertato. Forse c'è qualcosa che non sappiamo. C'è anche questa presenza di Minzolini è strana, e non lo so, forse ci sono dei sottointesi o degli precedenti che non conoscevamo. Non so, non auguro particolare fortuna a Trump nel processo, ma vorrei che mi dicesse a cosa servivano le perline. Poi, a livello di grandi protagonisti politici, guarda, si parlava appunto delle festività pasquali, io non ho capito la telefonata di auguri della Meloni ad albicocche, pesche e ciliegie, cioè ecco, specificamente, so, altre frutte, altri tipi di frutta sono state diciamo ignorate, non lo so, ecco, sì, forse sì. Perché producono ricchezza, le albicocche, le pesche, le ciliegie, ecco, non Berlusconi, Banzo, non ho capito se è risorto. Non lo so, però qualunque cosa succeda, Berlusconi sarà sempre nel nostro cuore. Vabbè. Quindi alla fine è anche abbastanza rilevante sapere, ecco, dove si trova a livello fisico in quel momento. Vabbè, andiamo avanti perché abbiamo un po' di news che ci arrivano da diversi continenti. Cominciamo con una canzone che ci riporta in realtà, anzi ci mantiene negli anni 60, che prima ascoltavamo con i Los de la Torre, perché andiamo ad ascoltarci un brano dei Kinks. E voi direte perché? Beh, prima ve lo ascoltate e poi vi spieghiamo il perché. Celluloid Heroes. Everybody's a dreamer, and everybody's a star, and everybody's in movies. Doesn't matter who you are. There are stars in every city, in every house and on every street. And if you walk down Hollywood Boulevard, their names are written in concrete. Step on Greta Garbo as you walk down the boulevard. She looks so weak and fragile, that's why she tried to be so hard. But they turned her into a princess, and they sat her on a throne. But she turned her back on stardom, because she wanted to be alone. And see all the stars as you walk down Hollywood Boulevard. Some that you recognize, some that you've hardly even heard of. People who worked and suffered and struggled for fame. Some who succeeded and some who suffered in vain. Only made of flesh and blood. You can see all the stars as you walk down Hollywood Boulevard. Some that you recognize, some that you hardly even heard of. People who worked and suffered and struggled for fame. fantasy world of celluloid villains and heroes. Because celluloid heroes never feel any pain. And celluloid heroes never really Celluloid Heroes, The Kinks, la mandiamo in onda questa canzone perché è una nuova versione rimasterizzata uscita l'anno scorso nel 2022 per il 50° anniversario dell'uscita dell'album che la conteneva, anzi dell'album e del live che la conteneva, Muswell Hillbillies e Everybody in Showbiz, Everybody's a Star, che sono gli album della nuova tappa dei Kinks a inizio anni 70 quando firmano per la RCA dopo i successi di The Kinks Are the Village Green Preservation Society e di Lola, la band di Ray e Dave Davis, che scrive dei brani diversi che raccontano storie di famiglie operaie che migrano dal centro città devastato dalla guerra, stiamo parlando della loro Londra, verso i sobborghi appunto della metropoli britannica. Ecco, stavo parlando anche di altre latitudini, altri continenti, perché in realtà questo album è molto americano dei Kinks, perché anche il live è registrato appunto al Carnegie Hall di New York e perché raccontano anche delle storie che hanno a che fare non solo con la loro Gran Bretagna e la loro Londra, ma anche appunto come in Celluloid Heroes racconta, insomma utilizza Hollywood come un prisma attraverso il quale guardare i sogni agrodolci degli americani comuni. Appaiono molte stelle del cinema del XX secolo, Greta Garbo, Rodolfo Valentino, Bela Lugosi, Bette Davis, Marilyn Monroe e ovviamente l'Hollywood Boulevard di Los Angeles. Un brano bellissimo e ovviamente per gli amanti dei Kinks potete cercarvi appunto questa ristampa che sempre ci sta a banzo. Beh sì, e devo dire Steven che dopo tanti anni di programma insieme, adesso concedimi un attimo di reducismo, devo dire che ho identificato alcuni artisti che ami, perché quando hai la possibilità ti piace trasmetterli, e i Kinks sono sicuramente fra questi, non posso darti torto, il pezzo è bellissimo, e però sono qui, tu sai, io sempre, come mi definisci, puntuale e preciso, sono qui per ricordarvi che quando il disco, quando la canzone uscì nel 1972 come singolo, era ovviamente un lato A, aveva come lato B il brano Hot Potatoes, che non è probabilmente la canzone più famosa dei Kinks. No, è vero. Ascolta, a proposito di corsi e ricorsi storici, ora andiamo ad ascoltarci una canzone che si intitola Suzanne. Non è quella di Leonard Cohen, ma è di un artista italiano che canta in inglese ed è uscita da pochissimo. Sono gli Psychopathic Romantic, sentiteveli qua. She's running in the fields, I'm sitting on a fence. Her horses give their wings, my head is on the tracks. Out there goes Suzanne. She's flying through the sky, going up to the pillar gods. I'm sitting on a plane, just trying to run away. Oh, there goes Suzanne. This is not what we want, so it's worth fighting for. And you know nothing's free. Get on. There goes only reasons with her head down, only smiles when time is up, injects crosses in her veins, new guy in the picture frame. Oh, there goes Sam. She's very confident, even God wants to be her friend. If she doesn't get her way, she'll shoot God right in the head. Oh, there goes Sam. Sono gli Psychopathic Romantics, Susanna è il titolo del loro nuovo singolo che anticipa un nuovo album della band, il quarto in uscita alla fine di questo 2023. La voce è quella del frontman Mario Dust alla porta, e anche in questo caso Banzo è una canzone, ovviamente loro sono italiani, sono originari della Campania, però è una canzone non solo cantata in inglese ma a che fare anche con gli Stati Uniti, di cui parlavamo poc'anzi riguardo ai Kinks, perché il brano, spiega appunto l'autore Mario Dust alla porta, ha a che fare con una melodia che gli si era insinuata in testa in un viaggio, in un volo tra l'Italia e gli Stati Uniti. Banzo, niente male questo brano, Sì, devo dire, io personalmente, qui giustamente ai Psychopathic Romantics non fregherà nulla, però invecchiando ho un po' di diffidenza quando si sceglie di cantare in una lingua che non è la propria, perché spesso magari ci sono delle lacune espressive, eccetera. Però questo brano, secondo me, è molto riuscito. Cioè, si prende anche questo titolo difficile che, come dicevi, fa pensare a Leonard Cohen, però la canzone si inserisce molto bene. È una tradizione anglosassone, evidentemente, però tiene molto alto il livello, è un brano secondo me molto molto convincente. E sì, a proposito di artisti che cantano in inglese, adesso rientriamo in Catalogna, prima insomma ne abbiamo parlato con Jordi Pelach, ora troviamo un altro artista che è stato spesso ospite del nostro programma, Steven Munar. Lui in realtà è anglo-maiorchino, anche se residente da tanto in Catalogna, e ha cantato quasi sempre prevalentemente in inglese, che è la sua lingua materna, ed è uscito da poco un suo nuovo singolo, si intitola Sailing Days, e ve lo proponiamo proprio ora. Sailing days across the sea, the rolling waves, the only place I was meant to be. Like the old times, enjoying will I. Let's build a new house somewhere down south, my love. Endless days across the fields, the swaying wheat, the only thing that it's real. Somewhere down south, my love. Sailing Days, il nuovo singolo che vi proponiamo quest'oggi qui a Zibaldoni, di questo artista che spesso è venuto a trovarci appunto qui su Radio Contrabbanda. Banzo, un altro artista che seguiamo da un po', È una nostra prerogativa, questo lo dico a uso e consumo magari di chi ci segue da poco, invece gli aficionados lo sanno bene. Diciamo che ci piace seguire artisti che abbiamo intervistato nella loro evoluzione. Ovviamente cerchiamo sempre di inserire nuove scoperte, nuovi profili da visionare, però è bello invecchiare insieme, diciamo, in un certo senso, perché così seguiamo artisti che magari ci sono venuti a trovare già ai tempi eroici della Plaza Real varie volte, e vediamo, ecco, cosa hanno da raccontarci alcuni anni dopo. Adesso nel 2023 avete sentito questa nuova bella canzone di Steven Mooner, per esempio. Eh sì, invece ora andiamo ad ascoltarci un brano di un artista che invece non avevamo mai programmato. Lui si chiama Angus McHogg, il nuovo singolo si intitola Parts. Eccola qui. Is it too late? Well, try another. piece of land. Your joke sounds so loud, no train rides to this town. Questa è Parts di Angus McHaug, che in realtà Banzo non è il suo vero nome. Esatto, uno avrebbe potuto pensare, un ascoltatore avrebbe potuto pensare uno scozzese, invece Angus McHaug si chiama Antonio Tavon ed è di Modena. Sì. E quindi c'è questo barbatrucco e probabilmente anche il nome del gruppo che accompagna Tavon, perché sono un quartetto in realtà. E questo è un singolo che anticipa l'album Sirius, in uscita il 28 aprile. Lo stile, come avete potuto sentire, diciamo, sta dalle parti di un alt folk indie rock, come da loro definizione, cantato in inglese, e non sono un gruppo nuovo, o un artista, nel caso si voglia considerare il solo Tavon, nuovo, in quanto questo è il quarto album sotto questo nome. Il primo è uscito nel 2011, dopo non erano attivi dal 2018 discograficamente. Questo album è stato registrato durante la pandemia e appunto questo era il primo singolo che lo anticipava. Parts, Angus McHaug, chiudiamo qui con un altro artista italiano che in questo caso canta ancora in inglese. Questa... Steven, prima di lanciare volevo segnalare, tu sai che io ho una grande passione per i titoli delle canzoni. Sì. In questo disco Sirius abbiamo un brano che si intitola Communist Party Party, cioè la festa del Partito Comunista, ovviamente con una traduzione un po' così, e secondo me questo tradisce chiaramente che si tratta di Modena, che si proviene da Modena, perché insomma l'Emilia nel cuore, ecco, le feste dell'unità erano faraoniche, ma vai avanti, scusa. Esattamente, hai perfettamente ragione. Andiamo con il libro della settimana. Baldone, perché dove saremmo noi senza Leopardi? La rubrica di libri del nostro programma. Eccolo qui la rubrica di libri dello Zibaldone, il libro della settimana. Banzo, quest'oggi parliamo di un libro che tra l'altro si presenterà proprio la prossima settimana qui a Barcellona, venerdì prossimo, 21 aprile alle 19, alla libreria italiana Le Nuvole di Gracia, Carrer San Luis 11, in presenza ovviamente dell'autore Paolo Berizzi. Il libro è L'educazione di un fascista, pubblicato nel 2020, non è l'ultimo libro di Berizzi, ne avevamo già parlato, anzi dell'ultimo uscito l'anno scorso, più o meno un anno e mezzo fa, che è gradita la camicia nera sul laboratorio politico dell'estrema destra a Verona. Questo, L'educazione di un fascista, invece parla dei giovani e l'estrema destra, il neofascismo in Italia. Alla presentazione organizzata dall'AMPI Spagna, ossia la sezione spagnola, barcellonese, soprattutto dell'AMPI, intitolata Guido Picelli, parteciperà anche Marcello Belotti e Paola Locati. Ci sarò anch'io per dialogare con Paolo Berizzi di questa L'educazione di un fascista, un libro che appunto racconta come il fascismo non è solo qualcosa del passato, ma nelle sue versioni neofasciste e neonaziste è qualcosa del presente. Una tematica che Berizzi segue da molto tempo, non solo quella dei giovani, parlo del neofascismo in generale e specialmente in Italia, attraverso il suo lavoro come giornalista di Repubblica da oltre 20 anni, la sua rubrica Pietre, la consiglio di seguire, che è quotidiana, e poi con anche altri volumi come il già citato è Gradita la camicia nera, uscito poco più di un anno fa, e prima nel 2018 Nazi Italia, che faceva, Banzo, in pratica una specie di visione panoramica di tutte le realtà neofasciste e neonaziste, sono molte presenti in Italia. Sì, io dopo la lettura di Nazi Italia rimasi particolarmente sconcertato dalla comunità dei 12 raggi. Adesso vado un attimo fuori tema, però mi hai citato Nazi Italia e francamente questi Varesotti che proponevano un improbabile nazismo mistico, ecco, mi ha sempre lasciato sconcertato. Però ti lascio la parola perché stavamo appunto uscendo dal seminato, perché stiamo parlando di un altro libro in questo momento. No, ma in realtà non uscivi dal seminato, perché la comunità di 12 raggi di Varese, gruppo neonazi lombardo, è presente anche in questo libro, come anche per esempio il gruppo di Lealtà e Azione, e soprattutto l'attività che queste realtà, ma non solo queste realtà, tanto appunto Lealtà Azione, che è soprattutto attiva in Lombardia, nel nord Italia, ma anche nel resto della penisola, ed altre portano avanti cercando soprattutto di captare e cooptare giovani e finanche giovanissimi, no? E infatti gran parte del libro racconta delle attività sportive, di molti sport, ma concentrandosi soprattutto negli sport da combattimento come il Muay Thai, tra gli altri, che organizzano appunto, da un punto di vista che sembra sportivo, associazionistico, dei gruppuscoli vincolati a gruppi neofascisti e neonazisti. Ovviamente appaiono anche gruppi e movimenti o partiti più conosciuti come sono Forza Nuova o Casa Pound Italia, ecco, ma il lavoro. Questa attenzione allo sport, Steven, ci spiega perché le palestre antifasciste non sono un vezzo, cioè un tentativo di mettere un cappello politico a un'attività sportiva che, come qualcuno dice, dovrebbe essere apolitica. Poi in realtà lo sport e la politica hanno sempre avuto un rapporto di attrazione e repulsione molto complesso, però diciamo, ecco, sembra voler giustificare quasi che lo facciano i fascisti, ma se qualcuno cerca di dare un approccio più inclusivo e meno violento, poi viene criticato, ecco. Sì, assolutamente, ma poi ecco la questione, appunto, oltre allo sport, anche la capacità, appunto, non solo di presentarsi da parte di questi gruppi, come scrive lo stesso Paolo Berizzi, dei fascisti gentili del terzo millennio, ma anche la volontà, appunto, di puntare sui giovani e i giovanissimi, fin dalla tenera età, fin dalle elementari, con dei appunto con delle creando delle palestre, organizzando dei corsi, delle competizioni, cercando di negare poi, quando ci sono delle inchieste, dei reportage, dei lavori sul campo, come appunto quello di Paolo Berizzi, che ha fatto chilometri, ha fatto decine e decine di interviste per capire meglio questa situazione, negando qualunque vincolo con la politica. Dicono sempre: la politica rimane fuori dalle palestre, noi facciamo associazionismo, facciamo sport, ma soprattutto volendo diciamo inculcare a questi giovani una serie di valori che hanno a che fare in fin dei conti con quello che era uno dei lemmi del fascismo, che era credere, obbedire, combattere, no? L'idea di rispetto declinata in un senso fascista. C'è molto di questo in questo libro, ma si parla anche di altre realtà che hanno sempre a che fare con i bambini e con gli adolescenti, come per esempio le colonie organizzate da alcune sezioni, direttamente o più o meno indirettamente connessi ad alcuni di questi gruppi, movimenti e partiti neofascisti e neonazisti, come nel caso di Forza Nuova, le colonie estive, ovviamente mi riferisco. Ma poi c'è anche tutta una parte dedicata a come queste realtà non rimangano solo isolate, appunto, nel sottomondo, nel sottobosco neofascista e neonazista, ma abbiano dei contatti molto stretti anche con formazioni politiche di estrema destra che hanno rappresentanza parlamentare, che in questo momento tra l'altro si trovano al governo in Italia, come essenzialmente la Lega di Salvini, che all'inizio del 2020, quando il libro è uscito, era forse la realtà maggiormente visibile. Salvini aveva lavorato molto nel lustro precedente per tessere le fila, no? E agganciare tutto questo mondo, soprattutto quello di Casa Pound e Forza Nuova, e adesso, ma già da allora, adesso molto di più, anche con i Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni. Come dunque tutto questo, diciamo, si leghi in qualche maniera, per quanto venga negato. E tra l'altro chiudo anche con un'ultima considerazione, perché poi ci sono anche dei casi molto particolari di chi, per esempio, si allena nei boschi e organizza, appunto, delle cose che sono molto connesse con il neonazismo da parte di questi militanti, ma poi anche c'è tutta la questione legata anche ai videogame suprematisti, una tematica davvero molto interessante, che ha a che fare con le nuove tecnologie e come, diciamo, attraverso internet, le reti sociali, in questo caso anche i videogame, si diciamo diffondano e si viralizzino una serie di valori legati appunto al combattimento, alla vita, alla morte, al poco rispetto per gli altri, legati appunto ad idee che possono essere quelle del suprematismo bianco o direttamente del neofascismo e del neonazismo. Insomma, un libro che davvero si legge tutto d'un fiato, che ci mostra una realtà molto preoccupante, per dirlo con un eufemismo, e che io credo, per chi è a Barcellona, sarà un'ottima occasione conoscere Paolo Berizzi la settimana prossima in questa presentazione. Ricordo, venerdì 21 aprile alle 19 alla libreria Italia Italiana alle Nuvole, organizzata dall'AMPI. Chiudo davvero con un'ultima considerazione, Banzo, prima di passarti la parola, ricordando che Paolo Berizzi, tra l'altro, è l'unico giornalista in Europa che è sotto scorta per minacce di morte da parte di gruppi neofascisti e neonazisti. Sì, purtroppo è un dato di fatto, è molto triste. Volevo chiudere anch'io con un aneddoto recente che ovviamente Berizzi non ha potuto includere in questo libro, ma che ha già coperto attraverso i suoi profili, cioè fra il sabato e la domenica di Pasqua, dopo la messa credo di mezzanotte, in provincia di Frosinone, un gruppo di dodicenni ha composto una gigantesca svastica usando dei tappetini che erano al parco. La foto è facilmente reperibile su internet, non fatemi descrivere le foto alla radio, e il sindaco del paese l'ha definita una bravata dopo la messa. Io ovviamente non voglio insinuare che dei dodicenni siano ideologicamente nazisti, però un aneddoto come questo, un episodio come questo, secondo me è comunque indicativo di un milieu sociologico che adesso in Italia si sta imponendo sempre di più. C'è questo sdoganamento che va avanti da anni, e ovviamente con questa operazione di sdoganamento portata avanti da individui coscienti, chiaramente anche dodicenni che non possono avere una riflessione politica elaborata, ne sono influenzati, e questo è il risultato. Andatevi a cercare la foto. Eh sì, hai perfettamente ragione. Andiamo ad ascoltarci un po' di musica e poi rientriamo per il finale. Sì, siamo davvero alla fine di questa puntata di Zibaldone. Ci rimane giusto il tempo per i saluti e per il consiglio musicale della settimana. Banzo, ti lascio annunciare, spiegare brevemente, telegraficamente, perché poi ce la vogliamo godere questa canzone, il brano di Emidio Clementi e Corrado Nuccini con cui ci salutiamo quest'oggi. Esatto, si tratta di un singolo che lancia questo disco, Motel Chronicles. Il singolo si intitola Se ne sta immobile accanto alla valigia sfasciata. Un titolo un po' da Mogol con Battisti, No, perché uno direbbe, ma perché questo titolo così verboso? Perché in effetti Clementi, insomma, per chi ha presente, storico vocalist dei Massimo Volume, e quindi sempre avuto il parlato come cifra stilistica, non cantava ma raccontava i suoi testi, e in questo caso appunto l'elemento letterario non è casuale, perché i testi di Motel Chronicles sono tratti dall'omonimo libro di Sam Shepard, che era soprattutto un autore teatrale, però ha scritto anche questo libro. E Emidio Clementi è qui accompagnato dal chitarrista dei Giardini, Corrado Nuccini, e il disco esce su 42 Records, o 42 Records, come si voglia dire. E secondo me, effettivamente, da come sentirete, il brano è molto molto bello, e il titolo ha perfettamente senso nel suo contesto. Si sente un po' l'unione di queste due anime, cioè l'inconfondibile voce di Clementi e i riferimenti più post-rock che vengono dalla parte di Nuccini, che appunto con i Giardini di Miro ha esplorato lungamente questo stile. Eh sì, effettivamente, ci salutiamo con questo brano. Emidio Clementi, Corrado Nuccini, Se ne sta immobile accanto a La valigia. E noi ci ritroviamo venerdì prossimo. Grazie di essere stati con noi. Buon pomeriggio, buona serata a tutti. Buon venerdì sera e buon fine settimana. No, manca una cosa. Eh sì, quello che era solito dire il primo sindaco socialista di Madrid dopo la fine del franchismo, Enrique Tierno Galván, alle 19:55 diceva sempre: beh, noi adesso ce ne andiamo a mangiare hot potatoes al Communist Party Party insieme a un pronipote di Porfirio Rubirosa. Alla prossima. Ciao Banzo, ciao a tutti. Emidio Clementi, Corrado Nuccini, godetevela. Thank you. Se ne sta immobile accanto alla valigia sfasciata, a fissare le sue cose. Pezzi di saponetta, rubate dalle docce dei motel dove si era fermato a dormire, barattoli schiacciati di fagiolini, una cartina stropicciata dello Utah, un asciugamano sporco di catrame bollente e asfalto che teneva in serbo per il suo primo bagno dopo un mese. Da un capo all'altro della statale non si muove nulla, neanche una foglia. Nemmeno la piuma di allodola piantata sul palo di una staccionata. Spinge la punta dello stivale sopra il segno scuro della frenata. Segue con lo sguardo l'impronta impazzita dei copertoni, l'odore acre della gomma, quello soffocante e dolciastro della sabbia. Con un leggero guizzo della coda una lucertola prende vita e scompare, ingoiata da quel mare di sabbia. Ha senso salvare qualcosa. Fosse solo un pezzetto dell'intera collezione, un paio di calzini, le pile della torcia elettrica, giusto un ricordo da portare a lei per convincerla che ha fatto qualcosa di più di niente, qualcosa di più che andare alla deriva per tutti quei mesi. He should try to bring her something back. Some little something. He should try to bring her something back. Some little something. Some little something. Ruga con un bastoncino tra i resti. Niente gli pare degno di essere salvato. Nemmeno le cose ancora intatte. I vestiti che indossa, l'anello di turchese, gli stivali con la punta a coda di rondine, la fibbia con l'immagine in rilievo di un rodeo. Getta tutto tra le cose rotte. Si accovaccia nudo sulla sabbia rovente e dà fuoco a ogni cosa. Quindi si alza, gira le spalle alla strada e si dirige verso lo spazio sconfinato.